Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Le 8 e 20 minuti. Eccoci, caro Oscar. Eccoci, siamo qui. Questo 28 di gennaio. Il santo, oggi è uno di quei santi pesanti, pesanti. San Tommaso d'Aquino, dottore della Chiesa, quindi uno si inchina, dice la somma, il sommo pensiero della somma dei domenicani, quindi per carità di Dio. Tra l'altro San Tommaso d'Aquino, la cosa fondamentale è che a proposito di unioni civili e legge 40, fino all'altro ieri nella storia della Chiesa faceva testo lui, nel senso che non attribuiva questa vita intoccabile all'embrione. E già San Tommaso d'Aquino non aveva un'etica, una bioetica fondata sulla biologia come è diventata la Chiesa di oggi, che ha accusato di scientismo prima nell'Ottocento il positivismo e poi ne ha fatto invece una teologia fondata addirittura adesso sull'eccesso di scientismo. Il contrario, San Tommaso d'Aquino attribuiva la piena dignità di vita eccetera eccetera in buona sostanza alla nascita. Come sapete, noi qui parliamo di tutto, tutto. E tu, anche voi potete parlare di quello che volete. 800 24 00 24. Siamo un porto aperto, potete approdare qui e dire quello che volete. Però vi vogliamo stuzzicare, stimolare. Quando si fa questa premessa si dice non è vero. No, no, no, no, per dire che noi vi invitiamo su un tema, ma poi potete dire quello che volete. Pensate di parlare su altri temi e va benissimo. Il tema che abbiamo scelto oggi è questa storia della Danimarca, dove hanno fatto una legge che dà la possibilità di anche requisire beni ai rifugiati e comunque chiedere a loro un contributo economico. Se hanno più di 1.350 euro, 10.000 corone danesi, devono pagarsi le cose, devono pagarsi il vitto, l'alloggio, perché devono cominciare a dare ciò che riceveranno in cambio l'assistenza dello Stato. Che ne pensate? È una legge, come dire, molto dura o è una legge giusta? Cari ascoltatori, vogliamo fare alla danese oppure no? Alla danese no, o no? Io dico che il concetto di far contribuire i profughi asilanti è giusto, ma negli anni a venire, poco alla volta e poco più che simbolicamente, nelle future dichiarazioni dei redditi, chiedere questa roba all'inizio serve programmaticamente a dire non venite qua. Questo è ovvio, esatto, è dissuasiva. Ma è ingiusta, perché significa farsi odiare subito e renderli immediatamente più dipendenti dallo Stato, ma non io meno. Infatti sono contrario per un semplice motivo: se hanno diritto ad essere profughi, hanno diritto, è un diritto e quindi il diritto va garantito. Poi contribuiranno quando saranno profughi, se saranno inseriti nella società, come tutti, pagando le tasse, se hanno un lavoro, come devono fare. Sì, contribuire al fatto che rappresenta un detto di spesa in più, si può fare simbolicamente, ma sempre nelle dichiarazioni dei redditi future. Da subito significa non venire. A, B, se vieni odiami, questo coi tempi che corrono non mi sembra così secondario. Sì. Ci rendo ancora più dipendente da me, in realtà, se ti levo quei pochi soldi dalla tasca che hai o il tablet e il telefonino, perché poi si arriverà pure a questo. Comunque, insomma, chiamateci su questo se volete. Però, Oscar, c'è un nome, tutti gli italiani, bisogna ripeterlo. Io lo ripeto dalle 6:30, bisogna ripeterlo perché deve entrare nelle teste. Immagino quello della vicequestora di Genova che ha stretto la mano al manifestante. No, non è quella, no. A cui però rendiamo omaggio, Maria Teresa Canessa ieri si è rivelata una donna che, ecco, in quei casi, come in tanti altri, le donne ci danno dei punti. Perché ieri, levandosi il casco e stringendo la mano, ha cambiato il segno di una tensione che poteva sfociare in cose. Ma io lo so che invece tu hai in mente un'altra signora. Ma no, questa signora Ilva Sapora, voi della sua esistenza non sapevate nulla e non sapete nulla neanche in questo. È il capo del cerimoniale di Palazzo Chigi. Diciamo oramai l'ex capo. No, non lo so, però va. È lo storytelling, bellezza, e su tutti i giornali è additata già come colei che, pensate, non sa l'inglese ed è la responsabile numero uno, secondo tutti, delle statue coperte da questi non so se sia lo storytelling o lo storyballing, però detto questo, senti, in questa vicenda comunque la si mette allo scaricabarile e l'aggrava. è un'autodichiarazione, un'autocertificazione di nanismo politico, perché questo è, dopodiché il governo può dire non ne so nulla, è ancora più grave per certi versi. Io trovo soprattutto ancora più una burla il fatto che oggi se ne parli per 3 pagine su alcuni quotidiani di una vicenda che era già una burla quando è accaduta, nel senso però che... sulla stampa internazionale ha avuto un, e ancora oggi un eco micidiale, la figura di Palta è rilevantissima. Tra l'altro Rouhani fa una dichiarazione, perché la stampa riesce a fare una domanda a Rouhani su questo e lui dice ma è una vicenda giornalistica di cui non so nulla e da parte nostra non abbiamo chiesto nulla. Vabbè, magari non è vero, magari qualche zelante funzionario avrà fatto notare qualcosa. Peggio ancora, però peggio mi sento. Comunque è vero che dicevo di questo rispetto alle botte che prende l'Italia su fronti molto più pesanti. Perdere l'amministratore delegato di Generali perché si scopre che grandi aziende italiane non gli piaceva Greco, che era un capo azienda troppo intraprendente, è una brutta cosa. Ieri è stato rottamato l'ottavo piano industriale di Fiat Chrysler e aspettiamo il decimo entro il 2004, perché Marchionne ha detto ma non contano i numeri del venduto. Non contano i numeri del venduto, tanto per dirne un'altra. La lunga vicenda dello scontro contro l'Europa perché ci vogliono le garanzie di Stato sulle banche. Ieri i mercati hanno detto ottimo testo, l'Unione Europea è riuscita a tenere buono il governo che voleva buttare un fracco di soldi pubblici, quindi da solo questo piano non risolverà l'eccesso di crediti derivati delle banche. Hai ragione tu, questi sono tutti i problemi più strutturali di Ilva Sapora. Ilva Sapora, che non è un'azienda, ma è il capo del cerimoniale. Certo, già suo nome Chigi. Ilva. Ilva, sì, il nome Ilva non te la rende simpaticissima, lo so. Purtroppo l'Ilva sta male come azienda, temo che stia male pure lei. Sì. Comunque, insomma, ci sono tante tematiche. È anche spuntato, raccontano, lo zio della Boschi. Perché ieri Renzi, in Parlamento, difendendo il ministro, dicendo cioè, puntate pure sul fango, tirate pure fuori i nipoti, tirate pure fuori zii, e ha citato lo zio, ma ovviamente per dire parenti, e lo zio è spuntato perché spunta. Lo zio della Boschi, secondo il giornale, è ex dirigente di una società fallita che ha preso 10 milioni di euro da Banca Etruria come crediti, un'azienda che ha fatto richiesta di credito, ha preso 10 milioni poi evaporati nel fallimento della società, e quindi chissà, anche lo zio. Secondo te l'ha detto... No, per ma perché diceva per cugini, necessità. Zii, nipoti, indagate, però è un po' strano, insomma, lo zio è comparso alla fine. Oltretutto il fatto, aggiunge oggi il quotidiano diretto da Marco Travaglio, dice che la ministra è un po' speciale perché l'anagrafe copre appunto i parenti di Maria Elena, perché dice che mentre gli stati di famiglia sono accessibili in tempo reale del premier di Padoan, invece alla Terina, nel comune, per accedere ai dati che riguardano la famiglia del ministro Boschi serve l'ok del prefetto, quindi c'è una tutela a proposito di zii, sempre a proposito di zii. Ma senti, noi... ma che dici di questo PD che ci aveva promesso una Rai libera dai partiti e ieri dice licenziate Massimo Giannini da Ballarò perché ha osato criticare la Banca Etruria? Lo dice Michele Anzaldi, che fa sempre molte sparate su cose televisive, cioè è diventato la guardia di ferro di Renzi, lo vicenderai. Sì, ho capito, ma... però lo stile della dice lunga. Va bene, lasciamoglielo dire, siamo in democrazia, licenziate Giannini. Non senza avere un brivido, perché ci avevano promesso alla Leopolda una Rai libera dai partiti, se questa è la loro libertà... Non ti piace. No. Ma vogliamo salutare l'onorevole Khalid Shawki, che è responsabile per il PD dell'immigrazione. Buongiorno Shawki, ben trovato. Buongiorno. Buongiorno. Parliamo della Danimarca, che è il tema che abbiamo lanciato. Immagino che a lei non piaccia questa legge che prevede la possibilità, non l'obbligo, la possibilità della confisca di beni ai profughi, ai rifugiati, insomma, che si paghino un po' la loro libertà, ecco. Ma non piace non solo a me, ma insomma penso a tutte le persone che insomma hanno conosciuto la storia dell'Europa, e tra l'altro nel giorno della memoria davvero è ancora più vergognosa questa misura. Cioè penso che davvero facciamo dei enormi passi indietro, e soprattutto manca proprio quello che è la consapevolezza di quello che sta succedendo nel Mediterraneo e dopo persone arrivano in fuga dalla morte, in fuga dalla guerra in Siria che vediamo tutti i giorni, addirittura pensare alla confisca dei beni per ripagarsi le spese, penso sia davvero un atto di grande disumanità, ma soprattutto di di perdita di una bussola che temo stiamo perdendo un po' tutti in questa Europa. Ma non crede però che insomma ci fanno sapere, tra l'altro, dalla Danimarca un ascoltatore che ci scrive, dice: ma guardate che qui la sanità è gratis e quindi cioè, vengono tutelati, vengono assistiti, però se hanno oltre 1350 euro possono semplicemente dare un contributo, non pesare totalmente al 100% sulle casse welfare statale, possono dare il contributo perché nel frattempo insomma c'è uno Stato che li ospita, c'è uno Stato che li accoglie, c'è uno Stato che garantisce loro diritti. Non è allora che... accogliere i rifugiati non è un favore che noi facciamo a qualcuno, ma è un diritto delle persone in fuga da persecuzioni, da guerre, e quindi questo è un diritto internazionale sancito alle Nazioni Unite dalla Convenzione di Ginevra, e penso che non è un piacere che noi facciamo, è un dovere di ogni Stato civile, democratico, accogliere persone in fuga, famiglie intere che fuggono dallo stesso ISIS e da quello che sta succedendo in Siria in particolare. E non è una scelta, una libera scelta di questi profughi, ma viene di fatto requisiti, vengono requisiti questi beni. Io penso che quei soldi possono essere, può essere data l'occasione a queste persone di potersi integrare nella società, investendoli in attività, diventando autonomi loro stessi. Ma è questo cattivismo, questa voglia in qualche modo di vincere il consenso politico, dimostrando chi più riesce a controllare meglio queste persone in fuga, eccetera. Io penso che non ci porti a nessuna parte, anzi ci fa perdere quel poco di credibilità che avevamo ancora come Europa nei confronti del mondo, un continente che bene o male, nonostante la crisi economica, nonostante tutte le difficoltà, rappresenta e può rappresentare oggi forse un po' meno quel, diciamo, ballume di luce, di democrazia, di civiltà, e rischiamo di perdere anche questo, purtroppo. Ma la sua posizione è chiara, però Oscar non è solo la Danimarca, oggi ci sono anche altri stati, l'Olanda, sì, la Svizzera, che non fa parte dell'Unione Europea, ma la Svizzera lo fa, la Polonia, la Slovacchia, anche la Slovacchia chiede un contributo. Ma io ho questa impressione che non essendo riuscita la politica europea veramente a dare forza e credibilità di fronte a questo enorme fenomeno biblico, su questo ha ragione il nostro ospite, però a mettersi d'accordo su come si faceva davvero dopo l'uscita tedesca della scorsa estate, allora che cosa succede? Succede che i paesi che hanno vanno da una soli, percentuale ognuno... molto più elevata, per esempio della nostra, perché la Danimarca è così, come la Svezia, di immigrati e rifugiati e asilanti, perché da anni e anni li assorbono ed erano il punto dove volevano andare quelli che sbarcavano sulle nostre coste, dicono: bene, non ci riusciamo con un accordo politico, allora iniziamo ad assumere queste misure, è chiaro, diciamo, che scoraggiano venire qua. Da dove non c'è un'Europa unita, ognuno va per la sua strada e cerca una sua strada. Oltre, secondo me, se sbagliata nel merito, poi dirò, però in 30 secondi, hanno anche l'effetto, se applicate, di far crescere l'odio immediato, che coi tempi che corrono non mi pare una buona politica. Terzo, io posso anche capire che un paese dica come asilante sarai chiamato a contribuire in parte a coprire le spese in più che rappresenti per noi nei primi anni, però questo lo rinviamo, lo spalmiamo in maniera poco più che simbolica nelle dichiarazioni dei redditi degli anni a venire. Questo è interessante. Non ti rendiamo ancora più dipendente da noi levandoti i soldi subito, però almeno Shauki, questo si può fare, cioè dire: non ti chiediamo i soldi subito, ti accogliamo, è un diritto, ma poi pagherai, contribuirai. Milan, la scelta tedesca, per esempio, di aprire in un colpo solo 1 milione di profughi non è una scelta solo di generosa umanità, è un calcolo anche di tipo demografico e anche economico, perché aumenta la spesa sociale, e Giannino sa molto meglio di me, insomma, anche dal punto di vista, appunto, dell'economia, dell'immigrazione. L'Inghilterra qualche anno fa fece uno studio rispetto a come aumenta la domanda interna grazie ai profughi. Così. Quindi in prospettiva sì, il messaggio però è che con 1.000 euro che io tolgo un profugo, io risparmio, eccetera, è un messaggio di pura propaganda politica, e mi dispiace molto che anche la famiglia socialista si sia in qualche modo, insomma, inseguito questa questo fatto logica. Che lei sta sottolineando, però dà l'idea, no, che oramai c'è una difficoltà anche per la sinistra europea, di difendere un'Italia. Oramai lo slittamento è generale, questo è il punto. Noi sicuramente questa Europa, Juncker, su cui abbiamo investito molto come gruppo socialista europeo, come Partito Democratico, rispetto anche a questo aspetto, sicuramente per adesso, insomma, sta deludendo le aspettative, e i governi socialisti, i nostri compagni di viaggio a partire dalla Francia, hanno nei momenti più difficili pensato più all'interesse nazionale che a una questione di condivisione di alcuni valori di base, tra cui l'immigrazione, e dover gestire insieme questa vicenda. Io ieri sono stato al Parlamento inglese in un'audizione e mi ha spaventato molto ormai l'idea per cui ognuno si salvi come può, E in questo ragionamento il nostro paese, insieme alla Grecia, sono sicuramente i paesi più periferici che rischiano davvero di ritrovarsi isolati. Va bene, insomma, staremo a vedere. In tutto questo bisogna capire, oggi Federica Mogherini, anche lei dice attenzione, non chiudiamo Schengen, sarebbe la fine dell'Europa, fa un'intervista alla stampa, immagino anche lei sia d'accordo, cioè, chi no chiudere Schengen. Ma, però... non ha senso chiudere Schengen quando il terrorismo purtroppo nasce all'interno delle nostre città. Abbiamo bisogno di una polizia europea di frontiera, sicuramente. Sì. Condividere i dati di tutti quelli che entrano, e questi sono gli elementi principali su cui bisogna investire. Oggi invece, insomma, c'è un ritardo gravissimo rispetto alla condivisione dei dati, e si cerca in qualche modo il capo espiatorio, e quindi una volta si accusa la Grecia, una volta l'Italia, dimenticandoci che un paese come la Grecia, che fino a qualche mese rischiava il fallimento, oggi non può, non è impensabile che possa da solo diciamo, gestire 800.000 profughi come sta facendo. Noi intanto la ringraziamo, Cali Sciauchi del Partito Democratico. Ci sono ascoltatori, c'è anche questo giallo, Oscar, vedi che le cose vengono raccontate, noi le diciamo, le raccontiamo, e poi ancora ci sono ascoltatori magari un po' distratti, dice chi deve dei soldi alla Turchia, mi spiegate sta cosa, 3 miliardi cos'è? L'Unione Europea, e noi per quota parte l'Italia, ci siamo impegnati per dare dei soldi alla Turchia, perché la Turchia deve fronteggiare la questione, l'emergenza immigrazione, insomma, basta vedere una cartina geografica, è il confine con la Siria, quindi insomma, no anche perché e l'Italia deve darli. Il piccolo problema è che fino a come lo fa fino adesso, cioè coi campi di concentramento, ecco forse... E c'è il problema che l'Italia deve dare la sua quota e che... I 300 milioni. Esatto, di 300 però milioni. Però dopo aver votato il Consiglio Europeo la misura, l'Italia ha puntato i piedi e ha detto non sono d'accordo, li vogliamo un bonus anche noi. No, vogliamo scontarli dal bilancio, vogliamo... Bonus, si chiama bonus. Come se fare i furbi. Fare i furbi. Dire una cosa e farne un'altra. Sentiamo Massimo che ci chiama da Trieste, città anche questa di frontiera. Buongiorno Massimo. Buongiorno. Semplicemente al di là dei buonismi e dei cattivismi, buon neologismo quest'ultimo fra l'altro, direi che si tratta di gesti inconsulti di nazioni disorientate in una mancanza totale di coordinamento. La Danimarca, lei sta dicendo. Quindi questo è un bruttissimo segno, perché esprime proprio una mancanza di una politica comune. Direi che per essere molto ottimisti vorrebbe che tutti i politici europei si diano molto da fare in questo momento, ma non mi pare che ci siano segnali incoraggianti. Comunque oggi vedremo, c'è il grande incontro Renzi-Merkel domani, il 29, domani, oggi è la vigilia, quindi si capisce che cosa succederà. Vedremo, se risolverà tutto. Ma poi capiamo la Danimarca, da mai che si è trovata la Svezia, che a un certo punto ha detto chiuso e quindi li rimandiamo al di là del ponte da voi. Questo è il motivo. Sai che c'è anche questa storia di questo video, non so se l'hai visto, io l'ho visto, è terribile, di questo profugo che tenta uno scippo, viene fermato in Svezia da una donna coraggiosa che dice oh stai facendo uno scippo, e questa persona le dà due ceffoni e poi le sputa in faccia. È diventato considerato l'uomo più odiato dalla Svezia. Ovviamente la Svezia l'ha espulso in Danimarca perché veniva da lì. La Danimarca non lo vuole. Cioè ci sono queste questioni. In Svezia hanno ucciso anche una ventenne. La 22enne che si occupava dei servizi sociali. Di un centro, insomma, la situazione è molta tensione. Avremo Francesca Balzani. I grandi paesi nordici per anni additati all'Italia come il modello dove tutto era risolto, c'era un'elevatissima integrazione, tanta spesa pubblica, tutti disposti, poi alla fine come si vede il collasso arriva. Ma chiamateci su questa questione immigrati. Avremo Francesca Balzani invece tra poco, è vice sindaco di Milano, ma forse più nota perché si candida alle primarie del centro-sinistra. Ha questi problemi giganteschi, devastanti. Fa quasi tenerezza l'Italia in cui i giornali titolano ancora, titolo Italia Oggi, Campania, Idemita all'incasso. Ma come dopo l'appoggio a De Luca, l'UDC ora vuole una poltrona per un Demita. Possono passare i decenni, ma queste sono le stelle fisse della politica italiana. Demita, va bene. A tra poco. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. Sono le 8:42 minuti, caro Oscar. Eccoci qui, tornati. Stavo ripassando un secondo un capitoletto di questo fenomenale libro di Casaleggio, Gengis Khan e Internet. Ma tu l'hai letto? Gengis Khan? E Internet. di Casale, quello in cui propone, io sono arrivato al capitolo in cui propone di istituire i misteri della pace, della vita e della giovinezza. Sì, è quello in cui dice basta supermercati, chiudiamo le edicole, dice anche impicchiamo le circonvallazioni corrotte, cioè, ah sì, corrotti un tempo ladri iraniane ogni tanto, però ma quella cosa ideale, l'idea che c'è il ministero della giovinezza a me fa impazzire, il ministero della pace, della giovinezza, poi uno della vita e poi c'è quello della giovinezza. Vedi, in campagna elettorale a volte si dicono cosette un po' così, ecco. Ma va bene, insomma, un po' così. Allora, a proposito di campagne elettorali, avremo ospite Francesca Balzani, che è vice sindaco di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. È la candidata, una delle candidate alle primarie del PD. Del PD. Per il centro-sinistra. Del centro-sinistra. Giusto, del centro-sinistra. Dobbiamo ricordare i giorni in cui si tiene poi la esatto, scelta. Quando sarà? Sarà il 6 e il 7 febbraio prossimi. Come si vota? Ricordiamo. Si vota senza tessera elettorale, basta la carta d'identità, si va sul sito Primari Milano, si vede qual è il proprio sito e il proprio seggio e si va lì solo con la carta d'identità, molto semplice. Ma perché poi stiamo parlando 6-7 febbraio, cioè è dietro l'angolo. È dietro l'angolo, sì, però primarie aperte. Primarie aperte. Allora, Francesca Balzani, ovviamente lei sta portando avanti, come tutti i candidati, una sua campagna elettorale, nel senso che sta cercando di far capire ai cittadini tutto quello che lei vorrebbe fare in quanto sindaco di Milano, se dovesse accadere. Movimentando l'idea, perché dice, ma tanto vince Sala, non è detto. No, questo forse in cuor suo, ma però... Ma assolutamente non è vero, non diamo mai per scontata la volontà degli elettori, esatto. Mi sembra un atto veramente irrispettoso e riguardoso, dare il voto per scontato. È esatto. Però insomma è finita sui giornali gli ultimi due giorni per questa proposta che secondo me può esulare anche dal discorso Milano e può valere anche per tutte le grandi città, fa discutere città. E cioè sui titoli dei giornali l'abbiamo vista così: gli autobus e i tram, cioè i trasporti pubblici gratuiti. No, attenzione, non sono i trasporti pubblici, sono i mezzi di superficie, sì. Mezzi Milano di superficie. Ha una rete metropolitana molto importante, anzi nel prossimo futuro addirittura si completerà un'ulteriore linea e questa è la grande differenza. Non si, nella mia proposta si può arrivare a non pagare il trasporto di superficie, non la metropolitana. Questo perché ovviamente immagino sia funzionale a una riduzione del traffico, mentre la metropolitana non incide, anzi agevola il fatto che la gente non prenda la macchina. È questa la ratio che l'ha spinta a fare questa proposta? La razza è naturalmente quella di incentivare in maniera drastica l'uso del trasporto pubblico. Abbiamo visto tutti e continuiamo a vedere anche in questi giorni, abbiamo già avuto 11 giorni di sforamento per le polveri sottili su 27 giorni a gennaio. A dicembre la situazione è stata drammatica a tal punto che si è dovuti arrivare al blocco delle auto. In quei giorni dell'emergenza mettiamo anche in campo come misure una gratuità parziale dei mezzi pubblici. Quindi evidentemente il punto della gratuità già lo consideriamo come un potente incentivo. Farlo un giorno e farlo sempre incide in maniera diversa sulle casse del comune. Sì, assolutamente. Hanno già sì, fatto i calcoli, quanto potrebbe costare 100 guardi, milioni? Fare i calcoli in maniera seria praticamente oggi è impossibile. Come tutte le grandi progetti bisogna darsi, considerare l'obiettivo e poi considerare i due canoni aurei, la sperimentazione e la progressività. È chiaro che non è una cosa che si fa dall'oggi al domani. Due osservazioni però, Balzani, perché da una parte, se lei mi dice fare i calcoli oggi è arduo, le potrei dire che allora è meglio non farne un'idea di campagna elettorale, perché i contribuenti, i cittadini, è giusto che sappiano almeno una forchetta di riferimento. Anche perché, io do atto agli amministratori milanesi, e lo dico sempre, che le condizioni finanziarie ed economiche di equilibrio dell'azienda pubblica dei trasporti per Milano vanno difese come un esempio in Italia, cioè rispetto all'ATAC di Roma e tante cose, quindi vanno difese. Io posso capire però che ci sia una svolta nella politica dei trasporti anche... in cui qualcuno può dire però dobbiamo fare un passo avanti, purché faccia capire quanto costa. Per esempio, se i colleghi oggi sul giornale di Milano, e finisco, alcuni suoi colleghi di giunta un po' avvelenati perché non tifano per lei alle primarie, però dicono Repubblica, no? Oggi l'apertura del titolo milanese, i colleghi: fu proprio lei a costringerci agli aumenti agli anziani, velenosa niente la battuta. Niente di più falso. Però, guardi, niente di più falso, assolutamente no. Quando io arrivai nel 2013 c'era uno spareggio di bilancio di mezzo miliardo e si fecero tutte le cose necessarie per riquadrare il bilancio e ciascuno fece il suo pezzo e la sua proposta. Quella non fu certamente una mia proposta. Però guardiamo avanti. Certamente questa è una cosa che si pone come obiettivo quello veramente importante di affrontare in maniera radicale il tema dell'aria e dello smog. Non possiamo continuare a considerarlo un tema d'emergenza. Mi scusi, ma siamo al 26, ieri avevamo già neanche finito il mese, metà mese, con lo sforamento delle polveri sottili. Quindi evidentemente c'è questo grande, bel, forte obiettivo democratico. Pensiamo all'aria che respiriamo tutti. Se lei mi dice domani facciamo tutto il trasporto su superficie gratuito, non sono naturalmente una sprovveduta né un irresponsabile, è un obiettivo di mandato. Sì. Si deve considerare pertanto come una cosa sulla quale partire, sperimentando tratti, con quindi sperimentazione, progressività, buonsenso. Mi sembra che questo sia l'unico modo per approcciare seriamente qualunque programma per qualunque città. A chi l'ha accusata di aver fatto una promessa elettorale che, voglio dire, fa molto presa ai cittadini, lei capisce, se io candidato dico vi prometto autobus, comunque mezzi di superficie gratis, i cittadini possono essere colpiti anche positivamente, no? Quando li si tocca nel portafoglio in positivo. Ma sì, però non capisco perché tutto quello che si dice in campagna elettorale è impegno o promessa, a seconda della parte politica per cui si è partigiani. Uno dei due candidati ha promesso o si è impegnato a fare addirittura la riapertura dei navigli, l'altro un reddito per tutti. Io credo che sia un progetto serio, perché mi sembra un progetto più che sperimentato in molte città del mondo, coerente con un obiettivo sfidante che sta diventando sempre più serio e importante, la qualità dell'aria. Dico molto realisticamente, non è che si fa domani, voglio dire, non è che sia una donna abituata a far follie, no? Avuto, da 10 anni che mi occupo solo di bilanci pubblici, sono stata il relatore del bilancio dell'Unione Europea, so abbastanza bene che le cose si fanno con serietà, impegno e concretezza. Con altrettanto pragmatismo dico, è un obiettivo condivisibile avere un'aria migliore? Mi sembra di sì, ce lo insegna l'esperienza di questi anni, di questi mesi. Noi le rendiamo atto che insiste, e noi però prendiamo atto del fatto, si vede che in campagna elettorale ha imparato manco a sentire la domanda. Però detto questo, prendiamo atto del fatto, secondo me posso darle un consiglio, prima, due giorni prima di votare per le primarie, al momento clou, il giorno prima, esca fuori con una forchetta di cifra e dica, e io la coprirei così, allora sbaraglia davvero i candidati. Però l'ultima domanda io la voglio fare, insomma, Sala, il manager, l'Expo, e poi scopriamo l'architetto dell'Expo, eccetera. Adesso scopriamo il giornale che dice anche il notaio dell'Expo. Ma insomma, posso chiedere un commento fuori dai denti? La stampa deludendo questa mancanza di chiarezza e trasparenza dell'ex manager di Expo Sala? Guardi, devo dire il vero, io, come ricordavo prima, è da 10 anni che faccio vita pubblica e fortunatamente non mi sono mai trovata in imbarazzo. Chi ha un ruolo pubblico non deve mai trovarsi in condizioni di imbarazzo, perché questo poi alla fine si ripercuote sulla comunità che rappresenta. È un punto molto importante. E quindi importante. Ci sta dicendo che Sala è motivo di imbarazzo a questo punto per tutto il PD di Milano. È così? È la sinistra di Milano? È così? No, sto dicendo che io non mi sono mai trovata in condizioni di imbarazzo. Questa giunta, la giunta di Pisapia, altrettanto, è andata avanti 5 anni senza ombre e senza ambiguità. Credo che questo sia un valore importante. Ecco, l'avvio è in positivo. Bisogna considerare che questo elemento, l'assoluta trasparenza, è anche una delle cose da rivendicare con orgoglio. Però se lei risponde così alla domanda sulle le presunti invece imbarazzi di Sala, noi leghiamo al fatto che insomma, mentre lo giudicheranno lei rivendica nessun imbarazzo, forse dall'altra parte ce n'è. Senta, ce n'è però qualcuno. La verità è che avete congegnato anche una tipologia di corsa per le primarie a tavolino per favorirlo Sala, perché tra lei, Maiorino, eccetera, cioè, dividete un fronte di voti che potevano convergere e Sala gode. Non lo so, non mi sembra che abbia molto da godere. Poi vediamo cosa succederà nei prossimi giorni. Se leggiamo tutto in chiave anti-Sala, ma non credo che viviamo in una campagna Sala-centrica. No, ma sa com'è? Esiste anche una segreteria che magari congegna ed equilibra i candidati da lanciare, perché ha in testa di portare a casa un risultato. Di solito i partiti i candidati delle segreterie di partito solitamente non hanno un successo molto combattivo. Mi piace la Mazzani, è molto combattivo. Ci faccia un pronostico, dai, una cosa che non si chiede mai a un politico, alla quale un politico non risponde mai. Ci faccia un bel pronostico per il 6-7 febbraio a questo punto. Il pronostico è un pronostico facile. Secondo me parteciperanno tanti milanesi, Milano è una città anticonformista però dicono che più ne partecipano e più le sue chance hanno basse, perché invece se ne partecipano meno lei ha quelle più alte, mi dicono gli addetti del PD, sono quelli del PD che me lo dicono. È un'alchimia veramente stravagante. Ma sa, le segreterie dei partiti fanno così, ma ci ha già detto che sbagliano ogni tanto. Ma no, ma il mio pronostico era non sono tanti apprendisti stregoni, vedo tanti allenatori. Io penso che la grande partecipazione sia veramente fuori da ogni alchimia, da ogni calcolo. Cioè, l'unico pronostico... modo per avere primarie veramente belle. Il mio pronostico era su chi vincerà, non su quanti parteciperanno. Non si può dire, lo scopriremo il 7 febbraio. Va bene, la ringraziamo, in bocca al lupo ovviamente Francesca Balzani. Faccia quel numero. Ecco, non le ho più risposto. Sì, assolutamente sì, molto volentieri farò quel numero, e quindi sono sicura che avremo così un grande progetto sul quale lavorare. Aspettiamo il numerino. Rivendichiamo tutti come noi candidati. Milano è città delle sfide, dell'innovazione. Ecco, allora, vediamo di considerare Milano città delle sfide e dell'innovazione, non benissimo, solo parole. Grazie. Lo faccio anche come forchetta, perché secondo me appunto dà un dato preciso di quello che la concretizzazione di questo progetto è questo. Poi non è che deve essere precisa, per esempio, all'euro, so, perché facciamo gratis le donne, gli uomini pagano il doppio. Potrebbe essere. Grazie comunque a Francesca Balzani, vice sindaco di Milano, una delle candidate alle primarie del centrosinistra per la corsa a sindaco. Abbiamo un minuto, non so, Angelo da Roma, può concludere lei? Buongiorno, volevo solo dire che l'intervento del responsabile per le politiche di immigrazione del Partito Democratico ha dimostrato ancora una volta un approccio approssimativo nei confronti perché ha innanzitutto miscelato il problema economico con il problema etico, e dall'immagine che ha dato è un'immagine di parte presa, cioè di un partito, una posizione partitica, non tenendo minimamente conto del fatto che in Europa innanzitutto manca una politica comunitaria, e questo ha senz'altro disorientato i vari governi locali che hanno intrapreso con politiche autonome. Dall'altro canto non ha tenuto minimamente conto del fatto che quando, con tutto il rispetto e con tutta la comprensione nei confronti di chi fugge, coloro che vengono qualcuno vuole con questi segnali fargli presente che hanno anche dei diritti, dei doveri, non vengo rispettati. Si fermi qui, sennò sforiamo. Ci perdoni, Angelo da Roma. Ci dobbiamo fermare, caro Oscar. Allora, ci dobbiamo fermare. Vediamo come va questa trattativa dei De Mita. Fondamentale. Per quello che mi riguarda, povera Italia. L'Italia delle statue autocoperte per censura. Che cosa ridicola. A domani! A domani!